Una lingua ruvida, onesta, puntuale, per raccontare vite ai margini, in una realtà che nel romanzo Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini entra senza filtri, in un'attualità più vera che mai, come vedremo grazie all'analisi di Davide Pisani. Alternano una violenza gratuita a una generosità patetica. La Roma monumentale e quella della speculazione edilizia sono lo spazio contraddittorio in cui avviene questa sorta di rito iniziatico di una giornata dei ragazzi di vita. Ma chi sono questi ragazzi di vita? Ragazzi di vita è un libro scritto nel maggio del 55 da Pierpaolo Pasolini, un famosissimo intellettuale, noto per le sue polemiche e per alcuni scandali. Pasolini denunciava la realtà sociale contemporanea del suo tempo, condannava la corruzione ampiamente diffusa in tutta Italia. La violenza, il consumismo che rende le persone tutte uguali in comportamenti, gusti e sogni. La borghesia, ipocrita, priva di valori. Per le sue denunce, Pasolini è sempre apparso come un personaggio scomodo. Durante la sua vita è stato oggetto di diversi scandali, come la sua omosessualità, più volte accusato di atti osceni con minori. Nel 1949 fu espulso dal PC per indegnità morale. Molte delle sue opere, condannate a censure come Ragazzi di vita, Una vita violenta, Accattone, Salò, principalmente per linguaggio osceno, blasfemie, pornografia, eccetera. Pasolini nasce nel 1922 a Bologna. Nel 1942 si nasconde in Friuli, tentando di sfuggire dalla guerra. Inizia a scrivere le sue prime poesie, tra il 1949 e il 1950. Viene denunciato per corruzione di minorenne e atti osceni. Viene espulso dal PC e perde l'insegnamento. Nel gennaio 1950 si trasferisce a Roma con la madre. 1955, pubblicazione di Ragazzi di vita. Romanzo che ottiene successo, ma subisce un processo per oscenità. Tra gli anni 60 e 70 del Novecento continua a scrivere, finché nel 1975 viene ucciso in circostanze misteriose all'idroscalo di Ostia, dove fu condannato il ragazzo 17enne Pino Pelosi. La vita di Pasolini è costellata di eventi memorabili, i suoi libri osceni, le sue condanne per corruzione, le sue opere polemiche. Ma ad aver costituito più scalpore è stato probabilmente il suo omicidio scaturito dalla sua omosessualità. Pasolini, la sera del 2 novembre del 1975, si doveva incontrare con questo ragazzo in un appuntamento romantico, Pino Pelosi, ma si tramutò in un oscuro omicidio. Infatti quella sera fu ucciso, travolta da tantissime altre persone ignote. Ancora oggi non risulta chiara la dinamica e si considera ancora l'ipotesi di omicidio premeditato da tempo. Pasolini è sicuramente un intellettuale molto curioso da scoprire, non solo per la sua vita avvolta nel mistero, ma anche per il suo romanzo Ragazzi di vita. Ragazzi di vita è un romanzo che racconta le vicende di ragazzi molto giovani, figli di operai romani. Ci troviamo nell'era post-fascista, appena dopo il 49, gli anni 50 del Novecento circa, per intenderci. I ragazzi di vita sono proprio questi ragazzi che vivono la loro vita, rubando, bestemmiando, insultando le altre persone, ma allo stesso tempo nel libro vengono narrate alcune sue loro generose gesta. Gli ambienti riprendono fedelmente la Roma del dopoguerra, massacrata dalla Seconda Guerra Mondiale, costellata di concentrazioni urbane in condizioni edilizie pessime. Strade deserte prive di vita, persone disperate sull'orlo della disperazione. Ciò che conta è sopravvivere. Violenza, violenza e violenza. Si vive di dupi otte e rubando al primo che capita. Pasolini ci mostra la Roma del 1950, corrotta dalla società, dalla sua ipocrisia, indifferenza e noncuranza verso il prossimo. L'avrà benata pure stamattina, ma quando siamo grandi gli facciamo vedere a nostro padre, andiamo ad abitare in un'altra parte con mamma. Tre fratelli, Genesio, Borgantico, Mariuccio, si lamentano il comportamento violento del padre, manifestando intenti omicidi. A Borgantì, mia rabbia mi hai, si non cantite meno. Il giovane Borgantico viene obbligato a cantare una canzone minacciato di violenza. Il ricetto, svegliato poverello, s'alzò stropicciandosi gli occhi, seguì a ciondoloni giù per le scale la polizia. Perché m'avranno preso? Si chiese. Boh. Fu condannato a quasi 3 anni. Il protagonista, il ricetto, scappato da una bisca clandestina, si mette a dormire per terra e casualmente viene incastrato in un furto avvenuto in una casa lì vicina. L'asseme, figlio de una mignotta, tie, gli sputò dentro un occhio. Gli legarono con uno spago i polsi a un uncino di ferro. Mo gli damo fuoco al palo della morte. narra un evento di violenza avvenuto nei confronti di un ragazzino di nome Piattoletta, che viene deriso da altri ragazzi per il suo carattere fiaggile e viene legato un palo, che sarà successivamente bruciato. Non ci fate caso, amata, che c'è da vergogna se tutta innamorata, chi più chi meno. Frase recitata da un uomo di mezza età alla moglie che piangeva appena tornato da un furto commesso insieme a Riccetto e Lenzetta. Questi sono solo un paio degli eventi che avvengono durante il romanzo. Pasolini illustra le vicende in stile verghiano, non si intromette negli eventi e non dà giudizi sulla vicenda, aumentando il realismo e la brutalità di certe scene offerte al lettore. Risulta chiaro il degrado, la superficialità della Roma ai tempi post-mussoliniani, la diffusione libera di violenza e di odio, la povertà che uccide le persone. Il protagonista dei ragazzi di vita è il Riccetto, un ragazzo menefreghista incoerente, che mostra una patetica empatia verso gli altri. Durante la narrazione incontriamo diversi eventi molto importanti, ai quali il protagonista reagisce sempre in modo diverso. Nel primo capitolo, insieme ad altri ragazzi, il Riccetto guida una barca nel Tevere. Durante il viaggio, il protagonista si accorge di una rondine che stava affogando e si getta in acqua per salvarla. Nell'ultimo capitolo, invece, un ragazzo di nome Genesio, che sta facendo un bagno sotto il ponte Sisio, viene trascinato dalla corrente. Il ragazzo non riesce a nuotare e Riccetto osserva la scena senza fare nulla. Un altro esempio dell'incoerenza del protagonista riguarda altri due eventi, uno accaduto nel primo capitolo, l'altro nel quarto capitolo. Nel primo caso, il Riccetto insieme a un ragazzo di nome Marcello insulta una donna di colore, prendendola a sassate. Nel quarto capitolo, invece, aiuta un ragazzo che era stato denudato e preso in giro da altri ragazzi. Un altro personaggio molto significativo è Marcello. All'inizio, Marcello appare quasi come uno dei migliori amici del Riccetto. Trascorrono spesso del tempo insieme, vagabondando per tutta Roma. Nonostante questo legame, il Riccetto per alcuni eventi e coincidenze si sposta in un'altra zona di Roma, non incontrando più Marcello, mentre questo lo cerca ovunque senza successo. Un giorno, per ammazzare un po' il tempo, decide di farsi una passeggiata e, passando vicino alla sua vecchia scuola, sfortunatamente viene travolto dalla scuola stessa, che ormai cadeva a pezzi, provocandogli gravi fratture alle costole che gli lacerarono parzialmente i polmoni. Marcello morirà in ospedale sotto gli occhi distrutti della famiglia e di due suoi amici che scoprono per caso la sventura, Agnolo e Oberdan. Poi c'è Amerigo, dipendente dal gioco d'azzardo. Nel quarto capitolo incontra il Riccetto, al quale chiede un po' di soldi per andare a una bisca clandestina all'8-9. In passato, Amerigo era stato carcerato per violenze verso una capra, con la quale ha praticato atti sessuali e per questo venne arrestato e frustato dallo stesso proprietario della capra. Dopo una lunga camminata arrivano alla bisca. Dopo un paio di partite, il Riccetto si accorge dell'arrivo della polizia e scappa, mentre Amerigo rimane. Poco dopo, il Riccetto, attraverso il duccio, scopre della morte di Amerigo. Amerigo quel giorno viene arrestato dalla polizia, prova a scappare ma fallisce, tenta di tagliarsi le vene con un bicchiere, ma fallisce un'altra volta, ed infine riesce finalmente ad uccidersi gettandosi dal terzo piano. Il Riccetto rabbrividisce e decide di presentarsi al funerale, dove vede solo uno degli zii di Amerigo. Di tutto questo ci possiamo chiedere, è cambiata davvero la situazione? Ma personalmente non saprei rispondere. Nonostante tutti questi anni passati, avvengono ancora casi di violenza gratuita. Ci sono ancora persone in condizioni di povertà estrema. L'odio è amplificato attraverso la tecnologia e i mezzi di informazione di massa. La violenza contro le donne è ancora presente fra di noi. Ad oggi sono ancora presenti tantissime situazioni di degrado in Italia, in tutti gli aspetti della società. Le scuole cadono a pezzi e il governo non si impegna abbastanza per aggiustarle. Le persone soffrono le tasse insostenibili imposte dallo Stato a causa degli evasori fiscali, vivendo di dupi yotte. La violenza appare insita e naturale nella mente umana. Viene demonizzato il diverso e completamente escluso dalla realtà sociale, alimentando l'indifferenza verso il prossimo, stragi, omicidi, scandali di ogni genere. Ma quindi, cosa è cambiato oggi? Secondo me nulla. Molte delle cose che sono accadute durante il libro di Pasolini accadono ancora. Ad essere cambiato è l'atteggiamento giustificatorio di oggi. Tendiamo a razionalizzare ogni evento che accade attorno a noi. Cerchiamo di trovare sempre un motivo a ciò che accade all'interno della nostra società. I ragazzi di vita appaiono lontani, ma sembra che i loro comportamenti siano stati tramandati fino a noi sotto una diversa maschera. Probabilmente l'intento di Pasolini non era quello di fare il moralista agli eventi che si susseguono, ma di mostrare soltanto ciò che accade oggi senza dire nulla, perché il suo libro vale più di 1000 discorsi morali futili. Il libro di Pasolini è molto intrigante. In particolare le storie di Marcello e Amerigo sono, secondo la mia opinione, le più significative e profonde, poiché apprendiamo il vero degrado della Roma dei suoi tempi del secondo dopoguerra. I personaggi sono ben strutturati, su tutti il ricetto delineato magistralmente e che funge a manifesto del tipico atteggiamento italiano di quest'epoca. La sua incoerenza è perfetta per descrivere la società di quel periodo. Ciò che non mi ha convinto è stato il ritmo del libro. Infatti, molte volte durante la narrazione, Pasolini si perde in lunghissime descrizioni. Per me, poco ammiccanti e inserite in parte della narrazione importanti, ma inadatte, poiché fanno perdere al lettore gli eventi della narrazione. Nonostante ciò, il libro di Pasolini resta un capolavoro e una perfetta enuncia di tutto il degrado presente ancora in Italia